Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medios. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Ormai sta diventando quasi una tradizione che non so se rispetteremo sempre, però ogni tanto sì. Io sono già qua con Chiara e con Alberto perché buonasera. Noi buonasera a tutti. Incominciamo con la domanda. La domanda che ci mandate voi ascoltatori e ascoltatrici. Adesso i titoli e poi attacchiamo. Il nostro ascoltatore Carlo ci chiede delucidazioni riguardo ai metodi per far passare il singhiozzo. Questo bosone di Higgs arriverà prima delle vacanze? Fra pochi giorni lo sapremo. Al CERN di Ginevra si annuncia un'importante conferenza stampa. Il grande meeting di Rio è finito, ma sembra proprio che di grande ci sia stato ben poco. Ricordiamo Alan Turing, grande scienziato che fu decisivo per l'esito della Seconda Guerra Mondiale. Pochi giorni fa cadeva il centenario della sua nascita. Medicina predittiva. Uno scienziato americano sostiene che si può fare senza ricorrere a tecnologie sofisticate. Domanda che ci arriva con un contenuto estremamente serio e però con una soluzione individuale abbastanza bizzarra. Vediamo. Direi, prima di sentire la domanda del nostro Carlo di questa settimana, ricordiamo come gli ascoltatori possono inviarci le loro domande, i loro rompicapo. Allora, sicuramente tramite la mail mebius@radio24.it, ma anche via Facebook Mebius Scienza, oppure c'è anche Twitter moebius_basso. Online. E allora diamo la parola a Carlo. Perché quando ho il singhiozzo l'unico modo efficace per farlo cessare immediatamente è deglutire un sorso d'acqua e contemporaneamente con le braccia dietro la schiena afferrare un polso e tirarlo? Grazie. Vabbè, insomma, diciamo che il rimedio di Carlo è un po' complicato, non so bene come faccio. Si farà aiutare da un'altra persona. Che gli tira il polso. No, lo tira no, lui. No, è lui da solo. È lui che tira il polso. No, qualcuno gli tiene il bicchiere, però, magari. Vabbè, qui ci vuole un personaggio molto autorevole. Un esperto. Presentiamolo. Un singhiozzologo ci vorrebbe. Ma credo che probabilmente lo sia. Il singhiozzo è qualcosa che ha base nella neurologia. E infatti siamo andati a Ferrara e abbiamo qui con noi Enrico Granieri, che è docente di neurologia e direttore della clinica neurologica dell'Università di Ferrara, appunto. Buonasera. Buonasera. Cosa ci dice? Non so. Forse vale la pena ricordare intanto che cos'è il singhiozzo. Sì, ecco, cominciamo da qui. Beh, il singhiozzo di per sé è un movimento involontario, proprio uno spasmo, che avviene nel diaframma, quel muscolo che è alla base della suddivisione tra gabbia toracica e addome. Sostanzialmente è una contrazione spasmodica perché improvvisamente si chiude la glottide che separa le vie respiratorie dalla faringe e in quella chiusura la meccanica dell'atto respiratorio che viene interrotto è quello che poi produce quel tipico rumore e poi quel sobbalzo della persona e della gabbia toracica. Questo come fenomeno di contrazione muscolare involontaria, rapida, e che normalmente è una funzione riflessa, cioè c'è qualche stimolo esterno o interno che lo procura. Lo innesca. E quali stimoli possono essere? Possono essere dalle situazioni più semplici, proprio perché è tutto questo che determina una irritazione della innervazione che va nel diaframma e che nelle situazioni più semplici della nostra vita quotidiana è quando si hanno delle dilatazioni dello stomaco, proprio perché c'è stata una rapida o eccessiva ingestione di cibi o molto spesso di bevande, o anche quando queste bevande, per esempio, sono troppo fredde oppure troppo calde. Tutto questo crea, con questi sbalzi di temperatura, una irritazione. Ma non c'è neanche lo spavento? Lo spavento, quello è un classico, se vogliamo, sì. Un episodio di emotività eccessiva, proprio quando ci si trova di fronte a una improvvisa paura, forse perché in quei casi lì il blocco del respiro di fronte allo spavento crea anche un mantenimento di quantità d'aria e anzi una immissione di aria superiore al normale e quindi tutto questo può comportare questo tipo di reazioni. Ne parlo quindi come elementi che sul piano fisiologico, nelle condizioni normali, evocano questo. Infatti tra le cause, proprio cause psicogene certo, frequenti. Però lo spavento è anche utilizzato come rimedio, insomma, dai, si dice quando uno ha il singhiozzo gli faccio buh, gli faccio prendere paura passa. E gli passa. E qui entriamo nella grande gamma dei rimedi per il singhiozzo, tra il quale appunto proprio quello del nostro ascoltatore Carlo. Qui ci sono un po' di mitologie da sfatare, e però ci sono in realtà dei rimedi che funzionano. Ma guardi, rimedi ce n'è antichissimi già. Lo stesso Ippocrate, 2400 anni fa, suggeriva di trattenere il respiro dopo una inspirazione profonda per un pochin di tempo. E questo è già un primo rimedio. In pratica posso dire questo, che la maggior parte dei rimedi che vengono proposti debbono essere poi situazioni che vogliono reinnescare delle attività riflesse che nel sistema nervoso debbono limitare la eccitabilità dei nervi, che poi sono i nervi frenici, che sono quelli che governano il movimento del diaframma. E quindi il rimedio proposto da Carlo, lui dice che funziona, cioè deglutire un sorso d'acqua e contemporaneamente tirare un polso con l'altra mano. Deglutire un sorso d'acqua è il rimedio forse più diffuso, utilizzato, più diffuso, più frequente in assoluto. Il fatto di creare poi delle attività muscolari possono essere poi dei rimedi alternativi per facilitare con delle contrazioni muscolari forse delle attività inibitorie. D'altra parte ogni azione interna o esterna per limitare il singhiozzo nelle persone, diciamo, che non hanno poi patologie diverse, anche questo rimedio può avere evidentemente senso. Sono tantissimi rimedi e tra questi ci abbiamo sempre da ridire, perché scientificamente non sappiamo poi perché il singhiozzo si manifesta. Probabilmente è un'attività governata dal nostro cervello come reazione ancestrale a attività motorie che sono residuo ancestrale nella evoluzione del nostro sistema nervoso. Va bene, grazie dottor Granieri, risposta completissima, la ringraziamo e la riportiamo al suo lavoro. Grazie. Buonasera. Vi ho spaventato così non potete più fare la trasmissione perché vi viene il singhiozzo. Va bene, allora io vado a sentire il traffico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Cosa arriva adesso? Ah, lo sapete, il quiz. Oh, fra un po' in questa trasmissione sentirete che parleremo di esposuroma. Va bene, allora, che cos'è questo oggetto, questa cosa? Prima possibilità, è una malattia della pelle che è causata da una eccessiva esposizione al sole. Ci scriverete sole. È un grafico l'esposuroma che ci dice quante sostanze cadono su un terreno agricolo e ci scriverete sostanze. Invece è l'insieme di stimoli, anche qui di sostanze, che interagiscono con il nostro corpo. E ci scriverete corpo. Ci scriverete sempre con il solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Alan Turing, Storia di un enigma, scritto da Andrew Hodges e di Alan Turing. E parleremo fra poco. Oh, mi dimenticavo, il libro è edito da Bollati Boringhieri. Mi collego con la nostra Barbara Gallavotti e mi chiedo, anzi le chiedo, si sente odore di rosmarino oppure altri dicono che potrebbe essere un odore di lasagne? Sì, qui al CERN si sente decisamente odore di qualcosa di molto molto interessante. Tra qualche giorno, il 4 luglio, verrà annunciato quello che loro dicono essere l'avanzamento sullo stato della ricerca sull'X, che è un modo molto laconico e molto in stile col CERN per nascondere quella che senza dubbio sarà uno degli annunci più importanti per questa istituzione. Dovrebbe esserci allora qualcosa di rilievo, di rilevante, però non siamo sicuri esattamente di che si tratta. È difficile difficilissimo dire veramente di cosa si tratta, perché LHC e i suoi esperimenti hanno funzionato fino al 18 giugno, producendo un'enorme quantità di informazioni, perché l'acceleratore sta funzionando molto bene, quindi ha prodotto più dati di quanti ne fossero stati prodotti nell'intero 2011, pur avendo funzionato questa volta solo 2 mesi. Questo vuol dire che i ricercatori stanno in questo momento e staranno fino all'ultimo freneticamente analizzando i loro dati, in maniera tale da essere pronti per il 4, che è una data in coincidenza con una conferenza importante che quindi non può essere persa. Ma è vero che potrebbe esserci anche, circolano pure queste voci, qualcosa di più importante ancora dell'X? Beh, secondo le indiscrezioni, questo X sotto certi punti di vista si comporta decisamente in maniera strana, e questa in realtà è una cosa che si è già vista a dicembre, quando c'è stato l'annuncio precedente dal CERN, e quindi tutti o buona parte dei ricercatori sperano che i dati di dicembre vengano riconfermati, e se così fosse si potrebbe addirittura pensare che l'X non è solo, che quello che hanno visto qui al CERN è magari l'X più qualcos'altro, che veramente si aprirebbe degli orizzonti molto interessanti. Fra l'altro, in questa caccia all'X, uno dei timori era che la scoperta del bosone chiudesse in qualche modo la storia della fisica sotto molti punti di vista, perché avrebbe spiegato quasi troppo, e invece in questo modo qui si potrebbero aprire nuovi orizzonti. Come al solito, no? Che ti sembra di essere arrivato al fondo e si apre una grande finestra. Noi, Barbara, abbiamo dato per scontato, perché ormai è un personaggio che è apparso tante volte nella nostra trasmissione, che cos'è il bosone di Higgs, ma insomma è qualcosa che potrebbe spiegarci niente poco di meno che cos'è la massa, insomma. Sì, è l'anello mancante, la tessera mancante al grande mosaico che i fisici hanno tracciato per spiegarsi che cos'è l'universo, come funziona, di cosa è fatto. Allora, è un po' la chiave di volta. Mancava la scoperta, e manca tuttora la scoperta di questa particella. Se effettivamente è fatta nel modo in cui i fisici pensano e si va a inserire proprio lì, allora in qualche modo il quadro si completa. Ma se è un po' diversa, allora si aprono nuovi orizzonti. Però insomma non sappiamo se c'è odore di rosmarino, se l'X ha odore di rosmarino o di lasagna, questo lo capiremo più avanti. Ce lo dovremo dire sabato prossimo, probabilmente. Grazie Barbara. Grazie Federico, buonasera a tutti. Si è concluso Rio 20, grande appuntamento, quel 20 lì sta per 20 anni dopo. Marco Magrini, un nostro collega del Sole 24 Ore, è stato laggiù ed è ancora laggiù. Ciao Marco. Ciao Marco. Buonasera. Allora Alberto, si potrebbe quasi dire che era andata meglio quella. Sì, infatti l'altra volta, insomma, grandi aspettative, una serie di trattati, i primi degli anni 70-80, che sembrava potessero dare dei frutti, e poi un po' di delusione dopo la conclusione. Stavolta forse è andata anche peggio. Sì, diciamo che nessuno si aspettava un granché, perché nell'edizione del Summit della Terra del 1992 parteciparono la Thatcher, George Bush padre, Fidel Castro, c'erano tutti veramente i grandi leader della Terra. Quest'anno già di per sé l'assenza di Barack Obama, che aveva inaugurato la sua prima campagna presidenziale con grandi promesse verdi e, come dire, la cosiddetta decarbonizzazione dell'economia, non si è nemmeno fatto vedere, e ovviamente c'era molta meno attesa già in partenza. Cioè tu dici non si poteva combinare di fatto di più di quello che è accaduto. Ma scusa Marco, in qualche modo certamente in questi 20 anni una sensibilità e anche molte attività ambientaliste sono certamente andate avanti, però secondo te dov'è il punto più fallimentare di questo appuntamento? Il punto più fallimentare è molto semplice: effettivamente le attività ambientaliste, la pressione ambientalista è cresciuta negli ultimi 20 anni, ma anche se vuoi i risultati ottenuti dalle organizzazioni non governative che si occupano d'ambiente, WWF, Greenpeace, Oxfam e via dicendo, al punto che queste organizzazioni sono riuscite negli ultimissimi anni a esercitare una certa pressione sia sulla società civile che sulle imprese, e complessivamente, questo è il dato che esce fuori da questo summit semifallito, che la società civile è molto molto più avanti dei governi. Con questo ne ho parlato anche qui in Brasile con rappresentanti di grandi imprese. C'era chiunque, dalla Coca-Cola alla Procter & Gamble, dall'Eni all'Enel. Effettivamente, diciamo, l'impegno da parte delle imprese è assolutamente più rilevante di quello dei governi, perché le imprese devono comunque pensare a lungo termine nei loro investimenti e così via, mentre invece i governi restano agganciati al breve termine elettorale e quindi sono incapaci di fare quei passi avanti che questa materia, visto che si parla di, forse per la prima volta nella storia dell'umanità, di occuparsi della terra come una cosa sola, al di là dei confini degli stati, in queste circostanze, come dire, i governi sembrano essere assolutamente incapaci di prendere una decisione multilaterale. Nell'appuntamento del 92, comunque, appunto, un risultato si era raggiunto, si erano sottoscritte almeno tre convenzioni, una che riguardava i cambiamenti climatici, una la biodiversità e poi il combattere la desertificazione. A 20 anni di distanza i risultati sui tre fronti sono abbastanza deludenti, insomma, una piccola percentuale degli impegni presi è stata mantenuta. Sì, esattamente. Tutte e tre le convenzioni delle quali hai accennato, che sono figlie del summit della Terra del 92, a essere sinceri, a 20 anni di distanza hanno prodotto poco e nulla, e soprattutto la questione più pressante, che è sicuramente quella del cambiamento climatico, perché il cambiamento climatico poi ricade sugli altri due argomenti. C'è un summit delle Nazioni Unite ogni anno da allora, e a parte il protocollo di Kyoto del 97, che è stato largamente disatteso, notoriamente gli Stati Uniti lo hanno firmato e mai ratificato, è successo poco e niente. E diciamo, la spinta multilaterale necessaria per riconvertire tutte le economie del mondo verso un sistema energetico che sfrutta meno i combustibili fossili che emettono anidride carbonica va assolutamente a rilento, cioè gli interessi sono talmente contrastanti fra i vari paesi che non trovano un accordo su questo fronte, appare al momento inspiegabilmente impossibile. La crisi, Marco, questa crisi mega, è qualcosa che ha pesato sull'appuntamento? Sì, ovviamente la crisi finanziaria che colpisce soprattutto l'Europa ha pesato. L'Europa è sempre stata l'avanguardia del movimento politico internazionale verso la cosiddetta decarbonizzazione dell'economia. Siccome c'è da mettere sul tavolo svariati miliardi di dollari in prospettiva per abbassare l'impatto dei combustibili fossili sul sistema economico planetario, e questa spesa, secondo gli accordi internazionali, ricade soprattutto sui paesi occidentali, è facile capire che questo ha contribuito largamente all'insuccesso di questo vertice. Si parla di green economy, di economia verde, ma qua mi sembra che sia l'economia al verde più che altro. Marco, ti salutiamo, tu adesso starai tornando da noi e poi magari approfondiremo un po' in onda quando sei arrivato. Grazie e buon viaggio. Grazie ancora, buonasera. Grazie. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. A ottobre di quest'anno saranno passati 70 anni dalla battaglia di El Alamein. Iniziò il 23 ottobre del 1942 e terminò il 3 novembre. Centinaia di migliaia di uomini complessivamente schierati sui due fronti, le truppe dell'asse, ovvero i tedeschi e italiani, e quelle alleate. Al comando delle operazioni due generali, il tedesco Erwin Rommel, considerato uno dei più geniali comandanti di tutti i tempi, personaggio dotato di inesauribili invenzioni tattiche e in possesso di una sconfinata determinazione. Sull'altro fronte l'inglese Bernard Law Montgomery, personaggio molto controverso che la recente storiografia di guerra tende a considerare di profilo molto più basso di quanto sull'onda della vittoria apparve negli anni successivi alla fine del secondo conflitto mondiale. Perché a El Alamein vinsero, come noto, gli alleati. La guerra è una bruttissima cosa, ma certo è difficile non considerare quella vittoria come un fatto positivo. Ma è chiaro a tutti che cosa significò. Non credo proprio. Le cose stavano così. In quella fine del 1942, la guerra in Nord Africa non si stava combattendo per possedere quei territori. o meglio, non era quello l'obiettivo principale dell'esercito hitleriano. La missione era un'altra, eliminare la presenza alleata in quella zona e puntare rapidamente a est, verso l'Iran, l'Iraq, impossessarsi delle enormi risorse petrolifere di quei paesi, andare oltre, verso l'Afghanistan e attendere che i giapponesi, che in quegli stessi mesi si erano spinti fino in Birmania, a un passo dall'India, portassero a termine la loro avanzata e si congiungessero con gli alleati tedeschi. Non era una follia strategica, un progetto non facile ma perseguibile. Una volta realizzato, Hitler avrebbe dominato dalle coste della Francia fino al Pacifico. Non è difficile immaginare che ancora oggi il mondo in cui viviamo sarebbe tutt'altra cosa da quella in cui appunto stiamo vivendo. Solo che la battaglia di El Alamein non fu vinta in Africa. Fu vinta in un edificio della provincia inglese denominato Bletchley Park, nella omonima cittadina di Bletchley. Qui, avvolti da un'assoluta segretezza, nemmeno gli alti comandi alleati conoscevano questo luogo, i servizi segreti britannici avevano reclutato linguisti, grandi giocatori di scacchi, esperti in enigmistica e soprattutto matematici e logici delle università di Cambridge e Oxford. Il loro compito: comprendere il sistema di comunicazioni criptate denominato Enigma, quello usato dalle forze dell'asse. Nell'arco di poco tempo a Bletchley Park tutta la ricerca fu guidata da un geniale matematico, Alan Turing. Fu lui a progettare Ultra, nome in codice della macchina che era in grado di decodificare le comunicazioni tedesche. Dal 1942 in avanti Ultra informò gli alleati sui piani tedeschi in mare, in cielo, in terra. Così, in quei 10 giorni di El Alamein, quando Rommel decideva le sue mosse, il generale Montgomery riusciva a conoscerle tutte in anticipo. Di più, in tutti i mesi che precedettero lo scontro finale di El Alamein, le forze alleate avevano ricevuto informazioni dettagliate sulla tattica dell'Africa Corps. E la storia militare ci dice che, nonostante questo incalcolabile vantaggio, Rommel era più volte riuscito a vincere. Anche nella battaglia finale, la volpe del deserto, così fu allora chiamato il terribile generale tedesco, andò in più occasioni non lontano dalla vittoria. Quindi, senza Ultra e senza Alan Turing, oggi forse io sarei un in divisa che vi parla da questa radio. La guerra finì, Alan Turing proseguì le sue ricerche sulle macchine e gettò le basi della computer science ed è per questo motivo che è considerato uno degli scienziati più importanti di tutti i tempi. In questo giugno ricorre una data importante, è il centenario della sua nascita. Ma la mattina di giugno, sempre era il 7 del 1954, Alan Turing si suicidò. Era omosessuale, fu arrestato, processato e condannato. Gli fu chiesto di scegliere fra la prigione o il ricovero in una clinica nella quale sarebbe stato sottoposto a cure intensive, quelle che oggi definiamo castrazione chimica. Scelse questa seconda opzione, uscì sconvolto dalla terapia e si avvelenò ingerendo cianuro. Nel settembre del 2009 il primo ministro inglese Gordon Brown, in nome dello Stato, chiese scusa ad Alan Turing per come fu trattato dopo la Seconda Guerra Mondiale, quella che di fatto lui aveva vinto. Andrea Trentini, docente e ricercatore del Dipartimento di Informatica dell'Università Statale di Milano, con il suo gruppo ha promosso una gara online nella quale si doveva decrittare il codice di una macchina Enigma riprodotta virtualmente. Ma come si fa a iniziare un lavoro di decrittazione? Quindi come fecero Turing e i suoi colleghi, non li abbiamo citati prima, ma svolsero un ruolo importante anche loro. Ci vorrà una parola nota da cui partire, un seme. Sentiamo Andrea Trentini. Per esempio avevano scoperto gli inglesi che i tedeschi, essendo molto precisi e pignoli, mandavano le informazioni meteorologiche a orari precisi con tutti i dati tipo di pressione atmosferica, vento, eccetera, eccetera. Gli inglesi facevano dei confronti con le condizioni meteo che sapevano anche loro, ovviamente, quindi riuscivano a sapere almeno una parte del messaggio originale, quindi avevano delle informazioni in più per ridurre il lavoro di decrittazione, che sennò sarebbe stato molto elevato. Perché qui, per riuscire a capire come funziona come funzionava quella macchina e in generale una macchina di questo genere, è importante sapere alcune parole che nei messaggi ci sono certamente. Esatto, allora loro il funzionamento della macchina lo conoscevano perché ne avevano degli esemplari. Il problema era conoscere l'impostazione iniziale di quella giornata per poi poter recuperare tutti i messaggi, e il lavoro diventa, si riduce molto più che diventare semplice nel momento in cui uno sa se ci sono delle parole ricorrenti all'interno dei messaggi criptati. Con quelle parole ricorrenti è possibile semplificare di molto il lavoro di decrittazione. Per esempio pressione atmosferica, per esempio pioggia, e quindi lavoravano su questi messaggi per cercare di capire come funzionava in generale tutto. Sì, una volta che loro erano riusciti a capire le impostazioni dei rotori di quella giornata, per quella giornata riuscivano a decrittare tutti i messaggi. Poi la giornata successiva sarebbe stato un altro discorso, ovviamente, però una volta che avevano il metodo riuscivano ad applicarlo abbastanza, cioè con successo abbastanza frequentemente. Perché il sistema Enigma funzionava con un manualetto che era in mano a quelli che mandavano i messaggi, che aveva giorno per giorno dell'anno. Esattamente, è un sistema cosiddetto di crittografia a chiave privata. La chiave privata è un'informazione che non devono conoscere se non quelli che devono sapere i messaggi, e nel caso della macchina Enigma era un elenco di impostazioni iniziali dei rotori da usare giorno per giorno. Una volta in possesso di quel manuale era possibile decrittare tutto. Il manuale ovviamente era super custodito, era scritto su una carta idrosolubile in modo che fosse facilmente distruggibile, e per cui era difficile da recuperare, da catturare. Alcuni ne sono stati catturati, altri no, e per cui hanno dovuto fare i lavori di decrittazione. Tu ricordavi nella conferenza che per un sommergibilista era facile trovare acqua, per sciogliere il manuale, se invece Enigma era usato nel deserto, il consiglio era? Un consiglio, diciamo, informale era di farci orinarci sopra per cancellare il manuale idrosolubile. Un altro grosso problema in tutti i lavori di decrittazione, di spionaggio e controspionaggio, era quello di cercare di decrittare i messaggi e di trovare un metodo applicabile sempre per decrittarli, ma soprattutto c'era anche da bilanciare il fatto di non far sapere al nemico che si era riuscito a decrittare i messaggi, per cui c'era questa sorta di battaglia interiore psicologica per dire: ok, adesso io te li decritto tutti, magari ho trovato il metodo perfetto, però se a quel punto il nemico si trova davanti me che lo sto aspettando perché so già dove deve andare, capisce subito che gli ho carpito tutti i segreti. Per cui di fatto, anche se riuscivano a decrittare molti messaggi, non li utilizzavano tutti, cioè non sfruttavano appieno questa cosa, proprio per non dare la possibilità al nemico di intuire che il loro sistema era stato violato. Il contributo particolare che dà Turing, e che è decisivo al lavoro di decrittazione, qual è? Allora, perché oggi ovviamente sarebbe molto diverso. Allora il problema computazionale era, loro facevano un attacco a forza bruta, come si suol dire, cioè provavano tutte le combinazioni. Il problema di provare tutte le combinazioni è tecnicamente facile, perché è facile meccanicamente provare tutte le combinazioni. È molto difficile dire se ogni combinazione che io provo è un messaggio plausibile oppure no. O c'è un essere umano che sa il tedesco, che vede il messaggio tentativo decrittato e dice: questo è un messaggio buono, questo no, però deve leggersi tutti i 18.000 milioni di milioni possibili immaginabili, oppure bisogna trovare dei metodi, dei meccanismi automatici per decidere se una combinazione provata è sensata oppure no. E il contributo forte di Turing è stato di trovare dei meccanismi matematici per eliminare determinate combinazioni, in modo da ridurre moltissimo il numero di messaggi da esaminare poi umanamente per capire se erano messaggi sensati oppure no. Carlo Ferretti, studente di informatica a Milano, è stato il vincitore. Gli abbiamo chiesto quanto ci ha messo. Mi ci sono dedicato, appena ho avuto tempo, nel weekend, e nell'arco di un weekend sono riuscito a scrivere tutto il codice. Quindi in 48 ore hai trovato la soluzione. Sì. Vinceva chi arrivava primo a produrre la soluzione, no? Mi pare, perché tu sei arrivato primo, o lo sai che sei arrivato primo anche in termini temporali. In realtà vinceva chiunque fosse riuscito a produrre la soluzione. Sì, questo è vero. Penso di essere il primo, però. Senti, è stato difficile? È difficile Sì, ma è stata soprattutto un'occasione per studiare qualcosa di nuovo e imparare sempre di più. Io ho seguito la tua presentazione e ho visto, insomma, anche per opinioni di tutti, che dentro c'erano un paio di passaggi nella tua soluzione abbastanza geniali. Non puoi dirlo tu, l'abbiamo detto noi. Esattamente. Qui al Dipartimento, con un'iniziativa di questo genere, vogliono anche promuovere il fatto che ci sono delle cose di informatica estremamente divertenti, e in effetti è vero, insomma, ecco, tu ti sei divertito, ti sembra che poi queste gare tirino fuori questa opportunità? Beh, sicuramente ho affrontato questa gara perché per me è divertente affrontare qualsiasi tipo di sfida, e se c'è un computer di mezzo per me è ancora più divertente. Al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano questa macchina, Enigma, si può vedere, e ne parlo con Luca Redutti. Buonasera Redutti. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Lei è curatore di questa mostra, nella quale appare un esemplare di questa macchina, che è anche in buone condizioni, no? Mi pare, perché non è facile trovarne. La macchina che noi esponiamo è in ottime condizioni, è una macchina che arriva al museo negli anni 70, una donazione di una signora della borghesia milanese che ha voluto donarcela. Mm. È una macchina, un modello tra i più classici fra i modelli militari, un modello tecnicamente definito M3, caratterizzato dal fatto di avere i tre rotori, i famosi tre rotori, che consentono, sì, ruotando reciprocamente, di codificare qualsiasi messaggio. Ne abbiamo un po' parlato prima. Sono macchine piuttosto pesanti, no? Piuttosto massicce. Sono macchine che all'apparenza, diciamo, ricordano una macchina per scrivere, in realtà sono molto più complesse, sono elettromeccaniche, mm-hmm, e quindi hanno un peso significativo, siamo attorno alla, diciamo, alla decina di chili ognuna. Che si portavano appresso quando erano sui sommergibili, era più semplice portarli appresso, magari in un deserto era decisamente più complicato. Questa macchina, chissà, forse era qui a Milano quando c'era l'occupazione delle forze naziste, probabilmente è arrivata da lì a questa cittadina milanese, che poi l'ha donata al museo. E all'interno di una mostra in cui però ci sono anche altre macchine, no? Sì, la mostra si chiama Tecnologie che contano, Alan Turing tra macchine e computer, e ovviamente è una, essendo un piccolo racconto della storia delle macchine da calcolo, dell'informatica, devo dire che partiamo proprio dalle origini con la Pascalina della metà del 600 per arrivare fino ai giorni nostri, e abbiamo deciso di esporre, ovviamente non tutto perché è impossibile, la storia tantissimo, è molto lunga, ma quelli che secondo noi sono un po' i punti, i momenti di svolta della tecnologia, appunto, che hanno consentito di arrivare oggi dove siamo con i calcolatori elettronici. Fino a quando è aperta la mostra? Fino a fine anno. Beh, allora c'è tempo per andare a vedere Enigma. Grazie Redutti e buon lavoro. Buon lavoro a lei e arrivederci. E risolviamo adesso il piccolo enigma del traffico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sentite adesso che cosa vi racconta Chiara Albicocco. Strumenti genetici per contrastare la pesca illegale. È l'obiettivo di un progetto europeo denominato Fish Pop Trace, adesso ne parliamo, questo studio che aiuterebbe a determinare la provenienza del pescato e a garantirne la regolarità del prelievo, ha giovato anche di una forte partecipazione italiana. Qui con noi questa sera c'è Tommaso Paternello, che è uno degli autori della ricerca, e specifichiamo che è stata pubblicata su Nature Communications, quindi un bel risultato. Intanto diamo il benvenuto, buonasera Paternello. Buonasera. Lei è direttore del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell'Università di Padova, e forse, se lei è d'accordo professore, inizierei inquadrando un po' lo status del problema della pesca illegale per capire poi l'importanza dei vostri risultati. Sì, dunque il problema della pesca illegale e della tracciabilità, quindi dell'origine del pescato, è legato al fatto che una quota significativa della pesca mondiale, si parla del 15% almeno, è pescata illegalmente. Illegalmente significa anche che è prelevata da aree geografiche in cui c'è una restrizione di pesca o un divieto di pesca. Mm-hmm. Il fatto che da un punto di vista morfologico è difficile distinguere all'interno di una stessa specie, per esempio il nasello, un nasello che viene dal mare Mediterraneo piuttosto che uno che viene dal mare Atlantico, appunto ha spinto a cercare strumenti genetici che possono identificare l'origine, quindi tracciare l'origine degli individui fino a una scala geografica abbastanza piccola, e quindi poter dire questo individuo viene da qui piuttosto che da un altro posto. Quindi utilizzando il suo stesso esempio possiamo dire che questo tipo di strumento genetico potrebbe farci capire che il nasello prelevato nel Mediterraneo potrebbe ad esempio essere stato prelevato illegalmente, perché in quella zona è stato segnalato come specie a rischio, cosa che invece magari non è successa nell'Atlantico, e quindi in quel caso ci direbbe: attenzione, quello è stato prelevato in un ambiente a rischio. Sì, esatto. Adesso l'esempio, di esempi ce ne sono diversi. Uno dei più classici è quello del collasso dello stock di merluzzo atlantico nell'area canadese. Il problema più generale è che esiste uno sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, in particolare di specie di grande interesse commerciale, il nasello. Nel nostro studio erano compresi il merluzzo atlantico, il nasello, la ringa e la sogliola, che sono le specie, diciamo, più sfruttate, più diffuse, certo, più pescate. E quindi il fatto che ci siano delle regioni che vengano sovrasfruttate mette a rischio la risorsa naturale. Specifichiamo che insomma, l'entità dell'illegalità è circa il 15% del pescato mondiale, quindi insomma una bella somma. Certo, è probabilmente una sottostima. Ecco. Stiamo parlando di un mercato molto grande, di un problema che è legato al mercato ma anche ad aspetti, diciamo, ecologici. E peraltro oggi dobbiamo abituarci a pensare che anche gli aspetti, diciamo, il valore naturale è naturale delle cose, degli ambienti, delle risorse naturali hanno un valore economico, quindi l'ecologia e l'economia ormai sono sempre più strettamente legate. E in questo contesto un po' infelice potremmo dire che la genetica viene in nostro soccorso, cioè si potrebbe fare qualcosa. Sì, adesso gli strumenti genetici sono sempre più potenti, voglio dire, noto a tutti che è stato sequenziato l'intero genoma umano ormai più di 10 anni fa. Adesso siamo capaci e abbiamo gli strumenti per sequenziare interi genomi non soltanto dell'uomo, ma non è difficile arrivare a sequenziare interi genomi anche di pesci, cosa che è stato fatto. Anzi, il progetto si basa su un sequenziamento, diciamo, parziale, ma comunque significativo, del genoma delle specie che ho menzionato prima. E quella è la base che ha permesso di sviluppare gli strumenti genetici che offrono oggi appunto la possibilità di tracciare l'individuo fino alla sua origine geografica. Ecco, e quindi avendo questa mappatura voi avete anche individuato quei cosiddetti marker, cioè quelle porzioni piccole di DNA che possiamo andare ad analizzare per capire se una stessa specie è stata prelevata nel Mediterraneo piuttosto che nell'Atlantico. Sì, esattamente così. Per fare questo abbiamo utilizzato strumenti genetici molto avanzati, la tecnologia usata si chiama Genome Scan e di fatto è in grado di tracciare la gran parte del patrimonio genetico che è espresso, si dice, cioè che è tradotto in proteine che hanno una qualche funzione. Noi abbiamo analizzato per queste specie tutte le proteine muscolari che sono espresse, appunto, che sono prodotte nel muscolo. Da questo abbiamo identificato alcune di queste che sono marcatori di origine geografica, con una sensibilità fino al 100%, cioè il margine d'errore non è più grande del 5%. Lo strumento è rigorosissimo, quindi a questo punto ce l'abbiamo a disposizione e in Italia lo possiamo usare tranquillamente? No. Lo possiamo usare, diciamo, da un punto di vista scientifico senza particolari problemi, nel senso che non è una tecnologia particolarmente difficile da utilizzare, però il punto è che noi offriamo lo strumento da scienziati a chi è interessato, in questo caso il legislatore, alla verifica del rispetto delle leggi. Bisogna che però entri questo strumento nell'applicazione, diciamo, nell'utilizzo meglio del legislatore, e si sia trasformata in strumento di legge. Ad oggi ovviamente questo non è ancora stato fatto, un po' perché è uno strumento prodotto recentissimamente, quindi adesso stiamo tirando le fila. È chiaro che ci aspettiamo, visto che questo è stato un progetto commissionato dalla Unione Europea esattamente per questo motivo, cioè per tracciare l'origine geografica di alcune specie in particolare molto sfruttate e eventualmente contrastare la pesca illegale. Beh, noi guardiamo con fiducia a questa tecnologia, a questo, diciamo, sistema di tracciabilità, perché in realtà ad esempio in altri paesi come l'Inghilterra viene utilizzato, sì, comunque si sono già aggiornati. Già gli strumenti genetici hanno un valore legale, in Italia ancora no, e devo dire che anche per situazioni più consolidate ci sono altri casi in cui si potrebbe già da tempo utilizzare la genetica per risolvere problemi legali, ancora lo strumento genetico non è entrato a pieno titolo come strumento riconosciuto dalla legge. Questo ovviamente è un limite, perché essendo uno strumento particolarmente potente potrebbe dare molte risposte e risolvere molti problemi. Questa analisi rigorosa genetica potrebbe eventualmente essere, non so, troppo costosa, entrare nella filiera e quindi in qualche modo aumentare il prezzo del pesce che poi noi troviamo al supermercato? Sì, il problema non è il costo dell'analisi come tale, quanto piuttosto quello che è stato fatto nel progetto, che ha avuto un significativo finanziamento, cioè quello di sviluppare tutta la tecnologia che poi arriva a identificare quei 10 marcatori che ti danno la risposta. Quel lavoro è già stato fatto dal progetto e quindi adesso abbiamo i 10 marcatori, adesso dico 10, indicativamente sono più o meno una decina per ogni specie, che a quel punto come costo di routine non sono costi insostenibili, stiamo parlando di alcune decine di euro per analizzare un singolo individuo. Eventualmente se diventassero routine probabilmente i costi si abbasserebbero ulteriormente. Va bene, insomma, allora il grosso è stato già fatto e dovremmo fare il solito passettino avanti, speriamo insomma che nei prossimi anni si possa utilizzare questo metodo. Va bene, grazie professore, ci faccia sapere al più presto. Grazie a voi. Medicina predittiva, adesso vi spiego che cos'è e anche perché ve ne parlo. Ho con me ospite per aiutarmi in questo compito divulgativo Alessandro Giuliani. Buonasera Giuliani. Buonasera. Primo ricercatore all'Istituto Superiore di Sanità. Lei ha lavorato per la sua attività, che è nell'ambito della epidemiologia, con John Ioannidis, che è un epidemiologo statunitense pure lui, dell'Università di Stanford, originario greco. Come si può capire dal nome, Ioannidis sta per arrivare in Italia, il 2 luglio sarà a Firenze all'università e il 6 a Milano all'Istituto Mario Negri. Questa è un'iniziativa promossa, curata dalla Fondazione Sigma Tau. Giuliani, lei appunto ha avuto modo di collaborare, di lavorare un po' con Ioannidis. Ho detto all'inizio, medicina predittiva, che potrebbe essere confusa con preventiva, e quindi io direi cominciamo a fare un chiarimento su questa cosa, sottolineando il fatto che Ioannidis è un personaggio di rilievo assolutamente mondiale, perché con questa medicina predittiva sta introducendo qualcosa di molto denso, insomma, su cui discutere e fare ricerca. Sì, giustamente appunto la differenza tra preventiva e predittiva. Intanto diciamo che la differenza fondamentale è la scala di grandezza, quindi per preventiva si intende qualcosa che è sempre stato fatto da 300 anni a questa parte, cioè l'individuare dei fattori di rischio a livello di popolazione che potessero essere rilevanti per la probabilità di insorgenza di malattie, ma chiaramente parliamo sempre di popolazioni, quindi chiaramente tutte quante le misure igieniche, tutte quante le misure di abbattimento di inquinamenti ambientali che sono sempre state fatte e che ancora vengono fatte, entrano nell'ambito della preventiva. Quando parliamo di predittiva, che chiaramente non è qualcosa di completamente indipendente dalla prima, ma è differente la scala, perché a questo punto la scala è il singolo paziente. Veramente questo cambia completamente le cose. Perché? Perché è vero che possiamo e anzi dobbiamo utilizzare le informazioni che ci vengono dagli studi epidemiologici e quindi dagli studi di popolazione per scendere al livello del paziente, ma questo implica un'attenzione completamente differente a cosa misurare e a dove andare a incidere. Se da un certo punto di vista il fatto di utilizzare l'informazione precedente per capire come si può evolvere una situazione è stato sempre e comunque il mestiere del medico, no? Quando dall'anamnesi al fatto di prendere in considerazione la familiarità e così via, è sempre stato quello. Noi abbiamo avuto un grosso cambiamento con in qualche modo crearsi anche in biologia di quello che si chiamava la big science in fisica, e cioè il grande sforzo sul genoma umano. Lì sono state fatte parecchie cose, abbiamo capito tantissime cose con la regolazione biologica, però sono state anche fatte delle estrapolazioni non giustificate. Un po' eccessive. Infatti io qui le chiedo, quando si dice di andare a fare una medicina sul singolo, oggi si dice tanto sulla possibilità di avere non più il farmaco che va bene per tutti quelli che hanno dei problemi renali, ma il farmaco che riesce a risolvere quel problema renale di quel determinato signore o di un gruppo di persone con delle caratteristiche fisiche forti. Non dovremmo andare in quella direzione lì? Anche qui deve intendersi sulla scala. Chiaramente pensare che uno vada a farsi fare un farmaco come una volta si andava da un sarto per a tagliare la giacca, a sistemare i pantaloni, è assolutamente fuori scala. Non esiste la possibilità neanche lontanamente, né economica e né pratica, perché immaginiamo che per sviluppare un farmaco ci vogliono attorno a 10 anni di fare un farmaco per una singola persona. Certo. Non sappiamo non solo questo, ma non sappiamo neanche quanto individuale sia effettivamente il presentarsi di una certa patologia, perché è vero che noi possiamo misurare, appunto torniamo prima, il genoma o le mutazioni che ha un particolare tumore, ma da questo a trovare i target terapeutici il passo è lunghissimo, non solo è lunghissimo, ma molto probabilmente non è neanche la strada giusta, visto che è dagli anni 80 che il numero di nuovi farmaci messi sul mercato è continuamente in diminuzione, nonostante le nostre conoscenze a livello molecolare stiano aumentando. E proprio a fronte di questo paradosso che Ioannidis cerca di mettere dentro un altro agente, che è tutto quello che noi chiamiamo esposizione ambientale. Oh, che ci arriviamo subito. Quindi lei giustamente ci dice attenzione, che non possiamo inventarci terapie che poi richiederebbero trilioni di euro per essere messe a posto, perché insomma ci piacerebbe anche, ma salta tutto, no? Cioè, ci curiamo ma non mangiamo, che sarebbe una contraddizione non da poco. Lei dice invece Ioannidis propone, ecco, che cosa? Dunque, parte da un dato di fatto, che in questi ultimi 30 anni è stato messo un grande sforzo, sia di denaro che di persone che di strumenti, nella delucidazione delle basi molecolari del funzionamento dell'organismo e delle cellule. Un grandissimo sforzo, un po' appunto dicevo prima, simile a quello che si chiama Big Science, cioè con tantissimi gruppi, ognuno che fa una piccolissima parte però di un progetto unico, e si è arrivati alla sequenziazione del genoma, che tra l'altro ci ha fatto anche capire che tante nostre premesse all'inizio erano sbagliate. Lui dice: perché non riconvertiamo questo tipo di sforzo collettivo e multidisciplinare, dove dentro ci sono ingegneri, matematici, fisici, per fare qualcosa del genere con l'esposizione? È chiaro che bisogna capirsi con le parole: mentre il genoma umano, cioè l'intera sequenza del DNA, ha un significato fisico ben preciso, l'esposuroma, cioè l'intero insieme delle esposizioni a cui è sottoposto una singola persona, non ha alcun senso. Noi non sapremo mai quali sono tutte le esposizioni. Sì. L'idea è quella di promuovere uno studio ugualmente a tappeto, ugualmente intenso, certo, per cercare di trovare nuovi strumenti di misura, nuovi sistemi di monitoraggio ambientale, per avere un'informazione il più possibile precisa su almeno le classi di esposizione a cui le persone sono andate incontro, e farle interagire con quello che invece sono i fattori interni che conosciamo. Sa già parecchio. Quindi, in sintesi, fare un grosso lavoro intenso, ma però insomma praticabile, per vedere tutti gli stimoli che in linea di massima noi come esseri umani riceviamo, avere una bella mappa di questo. Ecco, e poi il concetto di interazione, cioè pensare come di fatto anche il senso comune ci dice che le cose più importanti in biologia derivano dalle interazioni, cioè non il genoma da solo, non l'esposizione da sola e neanche la somma dei due, ma l'interazione dei due, che è qualcosa di diverso dalla semplice somma. Va bene, così mi sembra abbastanza chiaro. Il tutto poi verrebbe a combinarsi con una conoscenza che tipicamente un medico, e qui c'è il solito consiglio, insomma, è importante avere uno che ti segua nel tempo, mette insieme la storia personale dell'individuo con quella che arriva da una scienza dell'esposuroma, come ha detto lei, dovrebbe venirne fuori una modalità di terapia molto più efficace. In ogni caso più ragionevole, e io aggiungerei anche più umana, visto e considerato che è il tipo di considerazioni che chiaramente il medico ha fatto sempre in maniera qualitativa, dargli una mano quantitativa, ma nella stessa direzione. Certo, cioè, questo è il punto. Mi è chiaro. Alessandro Giuliani, la ringrazio. Ricordo grazie il 2 luglio a Firenze all'università e il 6 a Milano, Mario Negri, è un'iniziativa della Fondazione Sigma Tau, e l'incontro è con John Ioannidis. Grazie ancora Giuliani, buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi. Giunta la fine di Mebius, come avrete capito dall'ultimo servizio, esposuroma è qualcosa che riguarda gli stimoli e anche le sostanze con le quali il nostro corpo interagisce, e quindi questo è il centro della medicina predittiva. Bene, vi abbiamo detto tutto, ci sentiamo fra 7 giorni qui. Buona settimana a tutti e a tutte.